non sono arresi. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, fiorentini. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, fiorentini. L'unità è la loro forza, è la strada il loro credo, contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, fiorentini. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, fiorentini. Dai sobborghi, fiorentini. Eccoci qua, passaggio a nord-ovest, la rubrica di Radio Wombat, appunto quello che accade nel quadrante nord-ovest della città e più in generale quello che accade nella nostra città e nelle immediate vicinanze. Ricordiamo il passaggio a nord-ovest, la state e la ascolterete su Radio Wombat, per ascoltare in streaming wombat.blogs.org e da un po' di tempo potete ascoltare anche in onde medie in AM 1359 a Firenze, in particolar modo nella zona nord-ovest e limitrofe. E anzi, ci potete anche comunicare come sentite il segnale, e ne approfittiamo per darvi l'indirizzo di posta elettronica, chiaramente non solo per sapere come è il segnale, come lo potete captare, ma anche per qualsiasi suggerimento o idee per la radio, postabomba@insiberia.net. E siamo qui con un ciclista fiorentino, un ciclista attento, diciamo, alle problematiche, non va solo in bicicletta, ma sostanzialmente si tiene anche informato e informa su quelle che sono le problematiche dell'andare in bici in città, e parliamo di piste ciclabili proprio da un punto di vista, come dire, geografico, la lunghezza, la percorribilità. E appunto la prima domanda gli chiediamo, la prima domanda gli facciamo è come, quanti sono, un'idea di quante sono e di come sono fruibili le piste ciclabili nel nord-ovest, ma chiaramente anche nel resto della città. Buongiorno ai radioascoltatori e radioascoltatrici, l'argomento è delicato, nel senso che noi ciclisti urbani siamo molto sensibili a questo tema, perché ci preme la salvaguardia della nostra incolumità. Fondamentalmente andare in bicicletta in città è una guerra quotidiana, nel senso che tutti i giorni rischiamo e tutti i giorni più o meno ne usciamo indenni. Questo però grazie a una buona dose di coraggio e anche di furbizia e astuzia, perché sicuramente la viabilità fiorentina non ci aiuta. Se dobbiamo fare un focus sulla parte nord-ovest, quindi diciamo da Careggi andando verso Sesto, si può dire che non esiste, non c'è neanche un metro di pista ciclabile, perché quelle che più si avvicinano alla zona nord-ovest e alla cittadina di Sesto sono una ciclabile che arriva fino in cima a Viale Morgagni, non senza difficoltà, e poi una ciclabile che passa all'interno del polo universitario di Sesto, però quindi passa e poi transita e scende giù verso Onovoli, ma naturalmente è al di sotto della ferrovia, quindi non è così comoda per raggiungere tutta la parte che va da Careggi, Rifredi, Castello e via discorrendo. In totale nell'area fiorentina le piste ciclabili, se non mi sbaglio, dovrebbero essere circa 90 km, con tutta una serie di aree ciclopedonali che sono tendenzialmente in centro, ossia tutte quelle all'interno dei pilozzi sono percorribili appunto sia dai pedoni che dalle biciclette, tutto intorno al centro. Nella parte nord ci sono piste ciclabili che circonvallano appunto il centro, che corrono sui viali praticamente, e poi diciamo in questo anello, anche se si può dire mezzo anello, perché nella parte di Laddarno le piste ciclabili invece non ci sono sui viali, Quindi poi ci sono tutta una serie di direttrici che si innestano su questo anello, si innestano in modo più o meno preciso, in modo più o meno fruibile, considerato naturalmente anche che attualmente con tutti i lavori che si stanno svolgendo in città, le piste ciclabili trovano ancora meno spazio, comunque tendenzialmente ci sono piste ciclabili che arrivano da Novoli arrivano verso il centro, ci sono le piste ciclabili che arrivano da Firenze Sud, ci sono dalle Cascine naturalmente, c'è una lunga pista ciclabile che arriva fin dalle Signe, e nella parte di Coverciano c'è un sistema ciclabile. Il problema è che molto spesso non sono connesse tutte queste vie, se così si possono chiamare, ma non solo, spesso sono anche ci sono vari ostacoli sul percorso. Alla base di questo io penso che ci sia un errore di progettazione, e questo lo dico da persona che utilizza le biciclette, la bicicletta quotidianamente, quindi come mezzo di locomozione, come mezzo per spostarmi all'interno della città, quindi se devo lavorare in modo veloce, per muoversi fondamentalmente. Quindi una rete limitata e a sua volta insomma non mantenuta, ecco, comunque si trova sempre ostacoli dovuti sì anche al non rispetto da parte degli abitanti, ma anche da una trascuratezza da parte di chi queste piste ciclabili dovrebbe tenere in funzione. Sì, allora io penso che ci sia addirittura un errore a monte, nel senso che per come sono strutturate a Firenze le piste ciclabili sono adatte per fare una giratina in bicicletta, quindi per svagarsi, per fare una pedalata, ecco, non sono pensate per... non vi è una viabilità ben precisa, e quindi di conseguenza se una persona deve spostarsi velocemente con un mezzo che lo permette, si trova a dover scegliere di non utilizzare le piste ciclabili spesso, perché i percorsi sono complicati, perché non sono agevolati, e quindi magari a volte merita affrontare i pericoli dello stare dentro il traffico pur di abbreviare il viaggio. Questa è una cosa che si riscontra in molti casi appunto le piste ciclabili sono invase dai veicoli parcheggiati, dalle persone che camminano, e quindi ripeto, il problema è che non sono delle vie. Ma mettiamo un po', cambiamo la concezione della pista ciclabile, perché quando una persona va a giro a piedi, ad esempio, mai gli verrebbe in mente di passare, di camminare in mezzo di strada. Però in mezzo a una pista ciclabile sì, quindi l'errore è proprio di concetto. Quello spazio non viene considerato come uno spazio per la locomozione, per la viabilità, bensì insomma uno spazio che ci può essere, non ci può essere. Naturalmente in tutto questo, appunto, i chilometri sono circa 90 mal connessi, però le promesse sono molte, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto un'amministrazione che strizza l'occhio alle due ruote, ma lo strizza in un modo un po' particolare. Gli interessa più il lato smart della bicicletta, il lato green, il lato friendly, questo probabilmente è una cosa che va in cerca di investitori, nel caso delle mobike, va in cerca di consensi quando vengono annunciate, ad esempio, misure come costruzione di nuove piste ciclabili oppure l'installazione di rastrelliere, cose che di fatto magari si sono viste ogni tanto, però ecco, non impattano realmente sulla vita del ciclista urbano. Quindi la concessione delle piste ciclabili a Firenze risente ancora, diciamo, del fatto che la bicicletta è vista come un mezzo di evasione, un mezzo di sportivo, così, e non come un mezzo di locomozione come può essere l'autobus o l'auto o roba del genere, insomma, ecco. Assolutamente sì, oppure come può essere la tranvia. Appunto, si diceva prima che non ci sono delle connessioni sicure tra la parte nord-ovest di Firenze e il centro, si parlava appunto andando verso Sesto, però si può dire lo stesso da Careggi andare verso la Fortezza. Di fatto sono riusciti a costruire un treno che passa, che occupa buona parte della carreggiata stradale di tutta Via dello Statuto, giù fino alla Fortezza, e non hanno trovato un metro per fare delle piste ciclabili sicure. Quindi, che fra l'altro erano previste nel progetto originale della tranvia. Quindi, questo io penso che sia proprio un intento, ecco, sì, la bicicletta è visto come non è visto come un'alternativa, è visto come uno svago, ecco, una cosa che così. E per quella la tua esperienza, da quanto tempo è, diciamo, che utilizzi la bicicletta come mezzo di trasporto, ecco? Da quando abito in città la utilizzo, anche perché non guido e quindi è l'unico mezzo che mi permette di muovermi velocemente e economicamente non costa assolutamente niente, a dir tanto con 50 euro di manutenzione l'anno si va dappertutto, perché no, è un esercizio fisico quotidiano, non solo è un esercizio fisico quotidiano, ma lo fai mentre ti muovi, e quindi sono due piccioni con una fava, prima ti muovi e poi fai un ottimo esercizio per il fisico, fino a che non batti i denti in terra, naturalmente, perché poi va messo in conto anche quello. Certo è che le stagioni non sono tutte uguali, magari in una stagione è più piacevole, in una stagione è più difficile, però ecco, io ad esempio non riesco a rinunciare alla comodità di poter parcheggiare dove voglio, di poter andare dove voglio realmente, perché così è, non vi sono limiti alla via che può percorrere una due ruote, e non vi sono, per quanto mi riguarda, non è neanche un limite il codice stradale, proprio perché è un piacere infrangerlo, soprattutto quando la situazione è come quella attuale. Io dico sempre che finché il codice della strada non rispetterà il ciclista urbano e la mobilità sulle due ruote, io non rispetterò il codice della strada, o almeno non mi sentirò in dovere di rispettare il codice della strada. E ci sentiamo un pezzo musicale che si intitola My White Bicycle, Sono i Tomorrow. Darkness, we still see. My white bicycle and me. My white bicycle and me. My white bicycle. Policeman shouts, but I don't see him. Rispetto alla tua esperienza da ciclista fiorentino e utilizza la bicicletta appunto quotidianamente, continuamente, quanto è aumentato, se è aumentato, l'utilizzo della bici come mezzo di locomozione o comunque come mezzo di trasporto da un punto all'altro, comunque come mezzo, ecco, negli ultimi anni? Allora, questa è una domanda difficilissima, nel senso che è proprio è un'impressione quella che posso dare. La mia impressione è che all'incirca non siamo andati né in su né in giù, nel senso che sicuramente ci sono più persone che utilizzano la bicicletta, però sull'utilizzo quotidiano io ho qualche dubbio, nel senso che la bicicletta come sport probabilmente... chi non ha una mountain bike in garage o in cantina e chi è che magari quella domenica l'anno o quelle due domeniche l'anno non va a farsi una girata. Secondo me sono aumentate anche perché le biciclette, anche quelle un po' più tamarre, di fatto le trovi anche a poco, poi sono non materiale buono, però le trovi a Decathlon come la trovi alla Coop, quindi... Secondo me, sotto alcuni punti di vista, magari chi lo utilizza in modo saltuario è aumentato, chi lo utilizza in modo quotidiano, io penso più o meno siamo lì. Certo è che chi arriva a scoprirla, io penso che poi faccia fatica a rinunciarvi, perché i benefici sono tali, cioè, la difficoltà è proprio lo scoprire la convenienza del suo utilizzo, perché parlandone con tante persone mi rendo conto che molti non la concepiscono proprio, ecco, il fatto di durare fatica per spostarsi. Però a me viene anche da pensare sempre che non è che così è meglio, è che così è, l'uomo è nato per muoversi con le sue energie, e quindi... E ci può dire le caratteristiche di una buona bicicletta da città, ecco, per muoversi in città, se c'è qualche accorgimento sulla gomma, sul manubrio, ecco, se c'è qualcosa che ci può permettere di utilizzarla ancora meglio. Allora, per quanto riguarda, poi naturalmente anche lì dipende uno in città che uso ne vuole fare, però la città Firenze, la strada è abbastanza piatta, quindi sì, non serve particolari cambi, particolari moltipliche. Le ruote servono buone, spesso ci sono, il terreno è difficoltoso e quindi con ruote del 23 si fa fatica, ecco, sono ruote da corsa, magari del 25. Io attualmente giro con una bicicletta che è una vecchia Atala degli anni 70, con delle ruote rinforzate del 25 e con un manubrio da corsa. Manubrio da corsa che, per quanto possa sembrare poco comodo da utilizzare in città, in verità io non lo lascio più da quando l'ho scoperto. Perché? Perché è stretto, e quindi essendo stretto e te in una posizione un po' raggomitolata, riesci a infilarti veramente in qualsiasi pertugio e riesci a svicolare e a sgusciare via dal traffico in un modo eccezionale. naturalmente servono i riconoscimenti, quindi le luci sempre di notte. Non credo che nessuno gli sia mai venuto in mente di andare a giro di notte con la macchina a fari spenti, perché è pericolosissimo, di fatto è esattamente la stessa cosa anche in bicicletta, non si può pensare di andare senza le luci, delle buone luci, magari anche qualche catarifrangente e naturalmente un casco non guasta. Mai la musica, assolutamente è un pericolo, bisogna nella guerra quotidiana delle città bisogna avere tutti i sensi pronti e quindi sentire che cosa succede intorno è assolutamente importante. Soprattutto adesso che stanno iniziando a essere diffuse le macchine elettriche. Le macchine elettriche sono, sì, magari non inquinano, ma sono veramente pericolose perché non fanno rumore e sfrecciano, e quindi sicuramente per i ciclisti sono un pericolo in più. Ecco, da un punto di vista delle multe, diciamo, dagli obblighi da parte dei ciclisti è più o meno lo stesso come le auto, oppure c'è l'osservanza della destra. Ecco, ti chiedo questo e ti chiedo anche se ci sono stati casi clamorosi. Mi sembra ci sia stato un caso clamoroso in cui ci fu una multa con una bicicletta perché una cosa non sta né in cielo né in terra. Sì, allora la bicicletta deve assolutamente rispettare il codice della strada come se fosse una macchina. In alcuni casi io penso che questo sia doveroso. La freccia non la mettono neanche le macchine spesso, però è una cosa importante indicare la direzione in cui si intende svoltare, quindi va utilizzato. Per quanto riguarda il rispetto del codice della strada, io torno lì. Il codice della strada non è rispettoso di me e di chi utilizza la bicicletta, e quindi io, quando una situazione è sicura, naturalmente conoscendo le strade, conoscendo i semafori, conoscendo le coincidenze fra i semafori, si riesce a compiere anche delle infrazioni, sì, però questo in modo sicuro. Sono passibile naturalmente di una sanzione, però prima mi devono prendere intanto. Non lo so, io ad esempio per quanto riguarda la sicurezza nella strada, cerco sempre di essere il più fastidioso possibile, nel senso che molto spesso nelle strade, anche in bicicletta, stare da parte è una cosa ben più rischiosa che stare nel mezzo. Ci sono situazioni dove assolutamente è meglio rallentare tutte le macchine che potrebbero potenzialmente superarti in modo molto pericoloso e quindi tenerle dietro, così come è fondamentale partire davanti a tutte le macchine ai semafori, è importante creare dei gruppi un po' compatti fra ciclisti che si muovono insieme. E quindi ci sono svariate accortezze da utilizzare. Non lo so, le difficoltà ad esempio a Firenze stanno diventando molteplici. In centro ad esempio spesso non è facile, i posti più trafficati dalle persone come possono essere Piazza della Signoria, Piazza del Duomo, io assolutamente a un ciclista consiglio di scansarli, perché quasi tutti i giorni sono impraticabili da quante persone ci sono. Il centro è un buon posto dove è una buona via per alcune parti del centro, sono delle buone vie per l'attraversamento delle città. Ma tornando alla questione delle multe strane, sì, a volte vengono multati i ciclisti, però non è una materia discussa, perché ad esempio in molte città europee vengono permessi, anzi non solo vengono permessi, ma sono stati stimolati le biciclette in senso unico, nel senso che i sensi unici per le biciclette non valgono, e questo per noi ciclisti è una cosa evidente, perché a volte a causa dei sensi unici ci troviamo veramente a fare dei chilometri in più sulle gambe, poi a un certo punto si sentono, e quindi in molte città le piste ciclabili percorrono naturalmente strade in senso unico senza creare alcun problema, Si ritorna lì, insomma, mancando le piste ciclabili. Mancando le piste ciclabili, naturalmente. Nelle altre città, Copenaghen, Amsterdam. No, certo, certo. Il ciclista si adatta alla bicicletta. La bicicletta è un mezzo che non si può tenere a freno, voglio dire, con una bicicletta ci sale anche sui muri, quindi poi a un certo punto è strano dire. Se ci fossero dei collegamenti idonei e funzionali, non ci sarebbe assolutamente bisogno di fare contromani, di fare infrazioni, di magari di parcheggiare la bicicletta male, però insomma le rastrelliere si vede in che situazione sono a Firenze. C'è qualche ritrovo, c'è qualche punto particolare, qualche momento particolare, qualche giorno particolare in cui magari vi vedete... Come ciclisti, ecco. Sì, allora c'è naturalmente la Critical Mass, che è una coincidenza organizzata, viene detto, cioè per pura coincidenza ogni ultimo giovedì del mese alle 18:30 i ciclisti più o meno ribelli fiorentini e non si trovano in piazza Santissima Annunziata, con la partenza prevista circa alle 7:30 per fare una pedalata tutti insieme, coincidenza è naturalmente, così come anche un'improvvisata il percorso, non c'è nessuno che decide, semplicemente la massa critica va dove vuole. Massa critica si chiama così perché è la massa, il numero di persone, il numero di biciclette necessario per mettere in difficoltà il traffico, cioè per far sì che per una volta, per qualche ora al mese, il traffico sia fatto dalle biciclette e quindi tutto il resto si deve adattare. Per riuscire a fare questo in modo sicuro servono un tot di persone. A Firenze, se non ci sono almeno 50 biciclette, la Critical Mass è un po' complicato gestire la grande rabbia di chi rimane piantato in macchina o incastrato in motorino dietro la Critical Mass. E quindi questo qua è l'appuntamento mensile ogni ultimo giovedì del mese, così come un po' in tutto il mondo, anche se in verità nel resto del mondo tendenzialmente viene fatto l'ultimo venerdì del mese. Una volta l'anno la Critical Mass diventa interplanetaria e quindi diventa CMONA, che è una grandissima coincidenza organizzata dove si vedono svariate migliaia di ciclisti, e nel 2018 è stata ospitata a Firenze. Altra occasione settimanale, questa volta invece, è quella della Brugola Rossa, che è una ciclofficina dove si può andare, si può imparare a riparare le biciclette, si trovano gli attrezzi, si trovano pezzi di ricambio, naturalmente di recupero, e anche uno o due meccanici che sono, insomma, lì pronti a insegnare. Altre cicloofficine presenti, ce n'è una in Viale Corsica, l'occupazione di Viale Corsica, anche se è in una fase un po' di stallo, pare. Viale Corsica dove? Viale Corsica 81, all'occupazione, appunto al numero civico 81, e purtroppo una cicloofficina ha chiuso da pochissimo, che era a fare spazio in via Faentina, e sta aprendo un piccolo angolo di riparazione presso gli spazi della polveriera Spazio Comune, dove sarà possibile fare piccole riparazioni. E poi questi sono gli spazi dove tendenzialmente si può riparare e imparare senza dover spendere. Tra l'altro, appunto, cogliamo l'occasione anche per informarvi che Radio Wombat ha il proprio spazio dedicato al mondo della bicicletta, a chi utilizza questo mezzo, sia in particolare come mezzo di trasporto, ma anche come un mezzo di svago, di sport e così via, e la rubrica si chiama In punta di pedali, IPDP, che va in onda due volte al mese, il giovedì alle 18:30, e che tra l'altro potete anche riascoltare, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, la potete ascoltare anche in podcast. Andate alla sezione podcast di Radio Wombat, quindi la potete riascoltare oppure la potete scaricare e riascoltare successivamente. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, ecco, com'è il rapporto, ecco, ci sono dei passaggi prossimamente, sia da un punto di vista dell'iniziativa per migliorare queste piste ciclabili, o anche dal punto di vista di quello che si muove a livello istituzionale, che molto spesso appunto è criticabile. Sì, dunque, intanto pare che si stia muovendo qualcosa, nel senso che prima dell'estate in Consiglio Comunale è stato approvato il progetto, è stato presentato il progetto della ciclopolitana, e non si tratta altro che una connessione fra tutte le piste esistenti, una denominazione con delle linee e con dei colori ben precisi. Naturalmente non è un'idea dell'amministrazione questa qua, bensì un progetto nato dall'idea, cioè da un progetto pilota che, se non mi sbaglio, a Pescara è stata fatta per la prima volta questa ciclopolitana, e quindi FIAB, Firenze in Bici, è un'associazione, si è occupata di sviluppare un progetto per una ciclopolitana a Firenze, e l'ha presentato, e pare, insomma, il comune e dovrebbe approvarlo, doveva dare il via. Hanno fatto grandi annunci rivendicandosi naturalmente tutto il progetto su tutti i giornali molto vicini alla nostra cara amministrazione, però noi ancora di questo non si è visto niente, così come non abbiamo visto queste migliorie che erano state promesse per l'uscita della Mobike. Saprete sicuramente della Mobike, questo sistema di biciclette condivise. La nostra speranza, noi abbiamo, diciamo, io ho visto in modo molto critico l'arrivo di queste biciclette a Firenze, magari anche esagerando, perché alcune funzioni sono sicuramente utili, è anche una cosa utilizzata, però diciamo che per come viene normalmente utilizzati questi progetti in Europa, nel senso che è già nate, in varie città sono nati i progetti di bike sharing, e magari sì, sono venuti quando ancora la città non era, da un punto di vista di viabilità, pronta, però in un certo senso magari è stato anche uno stimolo per l'amministrazione, una volta che le persone iniziavano a utilizzarla realmente, uno stimolo a costruire una rete, un sistema adeguato di viabilità. Questa cosa a Firenze è stata promessa, ma non è avvenuta. Di fatto siamo stati invasi da tantissime biciclette che si trovano nei posti più disparati, ma questo è bastato per far sì che l'amministrazione fosse contenta. Poi quei chilometri in più promessi non li abbiamo visti, quelle rastrelliere in più promesse non le abbiamo viste, e quindi si torna lì. Questa era un'altra delle propagande di pre-campagna elettorale della nostra cara, amatissima amministrazione. Ecco, finisce qui una prima panoramica, poi appunto per approfondimenti magari potete anche ascoltare in punta di pedali, e in finale, ecco, cosa ci dici? In finale dico che questa è una lotta continua, e servono sicuramente persone per vincerla, e quindi sicuramente il mio invito è quello di venire alla Critical Mass, può essere una buona esperienza per avere un'altra idea del muoversi in bicicletta. È una situazione molto particolare, perché con estrema semplicità vengono veramente ribaltate le normali regole che vigono sulle strade, con una semplicità tale che è proprio divertente. E appunto ascoltare in punta di pedali, un giovedì sì e un giovedì no, si parla di biciclette, ma non solo, l'utilizzo della bicicletta sul luogo di lavoro, perché oramai è diventato uno strumento di lavoro per molti ragazzi giovani e sottopagati, in condizioni lavorative piuttosto estreme. La causa, l'ultimo Giro d'Italia è stato molto discusso, la campagna di boicottaggio del Giro d'Italia, quindi diciamo che la bicicletta è un mezzo, ma è anche una scusa per fare un po' come lei e andare a esplorare ciò che ci sta intorno. Finisce qui questa puntata di Passaggi a Nord-Ovest, ricordiamo che la state ascoltando in streaming dal sito wombat.blogs.org, la potete riascoltare, questa come tutte le trasmissioni Passaggio a Nord-Ovest, non solo il lunedì in diretta, ma anche dal martedì al venerdì sempre alle 13.30, che è appunto anche lo stesso orario del Rete. La potete riascoltare in podcast, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando alla sezione apposita podcast appunto di Radio Wombat, sempre allo stesso indirizzo wombat.noblogs.org. Ciao ciao. Ciao Wombati e Wombate.